Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Io sto seguendo il consiglio di Fabrizio Intonti, mi ha detto oggi non parlare. Sto zitto, ma voi cosa fate che ascoltate? Invece cercate di avere un po' di misericordia per il fisiologico e drastico abbassamento di voce e seguitemi in quello che vi dirò, perché il vostro aiuto e il vostro contributo questa mattina, oltre a alleviare il dolore lancinante della mia gola, mi aiuterà a portare avanti la trasmissione. Ho visto ieri una pagina su Repubblica che mi ha molto incuriosito e mi ha riportato ad antichi ricordi fanciulleschi, che sono quelli su cui naturalmente noi costruiamo la nostra esperienza, poi rimangono seppelliti come parte subliminale e inconsapevole della nostra esperienza di adulti, ma poi rivengono fuori in certi momenti, in momenti particolari, in momenti in cui si deve superare un ostacolo che non possiamo razionalmente affrontare e gestire con gli strumenti evoluti della nostra maturità, con ciò che abbiamo studiato, con ciò che abbiamo appreso ai master che abbiamo fatto, con il frutto della nostra civilizzazione, delle nostre letture, delle nostre educazioni. In Inghilterra a un certo punto sono resi conto, i sondaggi singolari vengono sempre dall'Inghilterra, quindi penso che uno su 10 sia vero e gli altri siano bufale. Questo, ammesso che sia bufala, però mi interessa molto e mi interessa parlarne, perché lo condivido in pieno. Quello che un po' corrisponde, penso, al nostro ente che tutela i beni culturali e ambientali, che si chiama National Trust, ha pensato di indire una ricerca nei bambini inglesi di età anteriore ai 12 anni, e si sono resi conto che dagli anni 70 a oggi fanno il 90% di cazzate in meno. E voi direte, beh, è una fortuna. No, con questo termine ormai entrato nell'uso comune, quindi completamente sdoganato dalla sua accezione malevola, io sto a significare tutte quelle operazioni che noi facevamo, noi, nostra generazione putrescente di cinquantenni, forse anche quarantenni, che noi facevamo dall'età in cui cominciavamo a camminare, a staccarci dai nostri genitori, fino naturalmente all'adolescenza che ci prendeva e ci portava verso altri tipi di cazzate. Vi faccio un esempio banalissimo: salire sugli alberi, costruirsi capanne, giocare al fantastico gioco di tirarsi le sassate, banali, andare a pescare. Io mi alzavo la mattina presto e andavo a pesca, c'era un laghetto artificiale proprio accanto a casa mia, era bellissimo perché si rischiava tantissimo lanciando delle canne manufatte, molte volte rischiando di portarsi via un occhio con l'amo, e molte volte nemmeno era un amo ma era semplicemente uno spillo piegato. Vedete quanto è arcaica la mia fanciullezza. Io ho fatto operazioni ben più deleterie, ben più pericolose. Eravamo negli anni dell'immediato dopoguerra, una delle nostre attività di caccia al tesoro preferita, l'ho detto più volte, molti si turranno orecchie, era reperire laddove erano passati i campi di soldati, siano essi alleati o siano essi tedeschi in fuga, cartucciere e attrezzi bellici. E ci piaceva smontare i proiettili da mitragliatrice e da moschetto, però c'erano dei meravigliosi spaghetti di cordite con cui si facevano delle fantastiche operazioni, lo dico, ma ero fuori dall'età della ragione, come dare l'assalto dinamitardo ai formicai. 800240024, voi ricordate le cose che facevate da ragazzi? Guardate che in Inghilterra sono stati costretti, una volta fatta questa analisi, una volta identificate le 50 cose che i ragazzi non fanno più prima dei 12 anni, che dovrebbero fare assolutamente, hanno messo una sorta di compagnia degli eroi, si chiamano Ranger Elite. I Ranger erano le persone che sanno fare tutto, sanno districarsi in ogni situazione. Hanno preso 5 ragazzi che probabilmente nella vita sono specializzati in sport estremi o sono persone che conoscono la natura. Uno l'hanno chiamato uomo albero, l'altro capitan sasso, poi il ragazzo rifugio, il cacciatore di insetti, il cacciatore di tesori. E ognuno di questi dovrà reinsegnare a ragazzini inglesi, ma che vale anche per i nostri, vale a tutte le latitudini dell'Occidente civilizzato, le cose che noi ci sentivamo rimproverare l'affare dei nostri genitori, che noi dovevamo fare di nascosto, di soppiatto, non salire sugli alberi. Salivamo sugli alberi, rischiando la vita, issandoci con cordini, rischiando di rimanere strangolati, impiccati. Ogni volta, pure succedeva qualche volta, ogni tanto. Non fate giochi pericolosi e non dai aguzzare le stecche degli ombrelli per farne frecce. Non maltrattate gli animali e noi dai a fare la caccia alle lucertole, ai rospi, alle ranocchie, ai piccoli roditori. Beh, tutte queste cose, queste naturalmente non andranno mai fatte, abbiamo un diverso tipo di percezione della natura, ma quante altre cose i vostri figli non fanno più? E cosa sareste voi disposti ad insegnare? Ci sono dei rangers tra i miei ascoltatori, potrebbero insegnare attività perdute che non fanno più i ragazzi di oggi, ma che sono fondamentali per la loro formazione. 800 24 0024. Arrampicarsi su un albero, rotolare giù da una grande collina, accamparsi all'aperto, costruire un rifugio, far rimbalzare i sassi sull'acqua, correre sotto la pioggia, far volare un aquilone, pescare con il retino, mangiare una mela appena colta dall'albero, lanciare palle di neve. Evviva, oggi tace, benedetta voce bassa, grazie, ma è falso, parla e straparla purtroppo. Il solito fantastico ascoltatore che manda il suo SMS. Ecco, probabilmente persone di questo tipo che devono esprimere il loro cattivismo di maniera mandando SMS pieni di livore, pieni di ammirazione, pieni di amore e pieni di smisurata attenzione verso i conduttori radiofonici, probabilmente nella loro fanciullezza non si sono arrampicati sugli alberi, non si sono mai presi a sassate, non hanno mai costruito una capanna. Costruire una capanna è un esercizio importante e indispensabile. Applicatevi. 800 24 0024. Partecipare a una caccia al tesoro sulla spiaggia, fare una torta di fango, costruire una diga su un ruscello, andare sullo slittino, seppellire qualcuno sotto la sabbia, stare in equilibrio su un albero caduto, dondolarsi da una corda, giocare a scivolare nel fango, mangiare more raccolte dai rovi, organizzare una gara di lumache. Quanti ricordi riaffiorano? Quante perdute memorie di gesti sconsiderati, folli, scavezzacolli, passatempi fanciulleschi vi sono rivenuti in mente? Voi pensate che la banalissima gara di corse tra lumache, la banalissima torta fatta di fango, il banalissimo seppellimento sotto la sabbia, a cui non davate importanza a loro, oggi sono quasi dei residui, delle reliquie di un tempo che non esiste più. Ricordo, noi facciamo questa trasmissione perché il National Trust, che è un'organizzazione no profit che tutela i beni culturali e ambientali della Gran Bretagna, ha scoperto che negli ultimi anni i ragazzi non fanno più certe cose. Hanno fatto un'indagine, hanno visto le 50 cose che non fanno più i ragazzi. E noi stiamo elencando banalissime attività che noi consideriamo trascurabili, sono indispensabili alla crescita e al mantenimento dell'esperienza e il passaggio delle esperienze di generazione in generazione, e probabilmente sono il supporto, la base, la fondamenta su cui edificare l'esperienza d'adulto. Non ci sono più. E devono essere tutelate come vengono tutelate le specie di animali scomparse, le piante rare, gli edifici che hanno un interesse storico-archeologico. L'archeologia del gioco scellerato da fanciullo, preadolescente, oggi è qualcosa di rarissimo, di importante. Avete altre attività da suggerire a questo elenco? Vi volete proporre anche voi come facente parte della gloriosa Rangers Elite, l'elite dei Rangers, di coloro che insegneranno ai ragazzi a fare quello che nessun padre ricorda più come si facesse? Sergio, buongiorno. Buongiorno a voi, intanto complimenti, sono totalmente d'accordo con quello che hai detto e ti seguo sempre. Ma io ho una figlia di 9 anni, è una bambina, e devo dire che in realtà gli sto cercando di insegnare quelle cose che facevo io 46 anni quando ero un bambino, cioè giocare a calcio balilla, spassami il termine, giocare a ping pong, tirare la palla a palla prigioniera, tirare i sassi sull'acqua. Noi abitiamo fortunatamente in una località marittima e quindi insomma abbiamo la possibilità. Sai perché è importante quello che hai detto te? Perché mi sto rendendo conto che questa ricerca inglese è molto a taglio maschilista, perché in effetti delle attività che elencano, queste 50 attività, erano tutte molto prettamente maschili. Io ricordo che le bambine difficilmente salivano sugli alberi, se riuscivi a convincerle a salire sull'albero era per un tuo precoce e malsano desiderio di guardarle sotto la gonna, se no perché salivano sull'albero le bambine? Giocavano con le bambole, però le bambine facevano le orrende tortine di fango, quello sì, che noi eravamo costretti a far finta di mangiare. Certo, no, no, beh, in realtà forse insomma, sono d'accordo con te che forse è un po' più... mascolina l'idea, però devo dire che prima dicevo alla signorina che mi ha risposto al telefono che io per lavoro sono sempre in giro e mi capita di vedere e guardare in faccia molti ragazzini di oggi di 10, 12, 15 anni e devo dire che mi spiace dirlo, ma vedo un po' di tristezza nell'occhio, nel senso che sembra sempre che sono alla ricerca di qualcosa che non troveranno mai e che forse sono un po' troppo infatuati da tutte queste cose. Beh, io posso farti una confessione, lo sono tuttora, la mia veneranda è ormai liminare età, la ricerca di qualcosa che non troverò mai. No, beh, ma io lo trovo e più ricerco. In termini, ma in realtà anch'io sono un sognatore e spero sempre in un qualcosa che... No, però dicevo che questi ragazzini li vedo che hanno... cioè, non so se vanno in... non so come dire, mi sembra che gli manchi qualcosa e poi magari mi è capitato, ripeto. Allora io comincio a leggerne qualcuno perché improvvisamente sono molto prolifici coloro che usano l'SMS come strumento di feedback. Allora, pescare nei tombini, mi dice Marco da Monza, i tuffi dagli scogli, dice Nicoletta. Poi mi scrive un altro ascoltatore, lavoro in banca nel fine settimana, ma non solo, sono educatrice scout. E questo dice i boy scout, mandateli ai boy scout. Sì, è giusto, i boy scout sono sempre esistiti, ma io parlo di illeciti comportamenti. I boy scout codificano e fanno come attività didattico-educativa queste cose qua. Il bello di queste cose è farle contro qualcuno, farle rubando fiducia ai propri genitori. È il primo segno di affermazione anarchica rispetto al potere costituito. È la maniera per strappare esperienze al di là di un sistema che vorrebbe che noi non le facessimo. Tuffi dagli scogli ancora, però state attenti naturalmente, questa è bellissima. Fumare la barba del Gran Turco, rollata con fogli di carta da quaderno. È vero, ci siamo fumati di tutto quando eravamo bambini, oltre al Gran Turco ci sono delle fantastiche e conturbanti erbe che si prendono nei campi, anche lo stesso fieno che si dava agli animali, e i ragazzini fumano tutto. Mio fratello si faceva fare i nodi con i vermi senza ucciderli, prendere dei lombrichi e annodarli, questa è un'altra cosa. Poi io, a quei tempi eravamo liberi, giocare in strada era normale, non esistevano i corsi di calcio, di nuoto, di danza, dice Giuliano. Pescare nei tombini, io dico cose che non ho fatto, che poi vedete è molto più ampia rispetto ai 50 punti dei signori inglesi. Ho ancora un arco fatto, mi dice un altro ascoltatore, a 10 anni, di nocciolo, il guaio che la punta delle frecce sono chiodi schiacciati, dove è finito? Questo è bellissimo, questo è molto... sono chiodi schiacciati dal passaggio del treno, per non parlare vabbè, questo è bellissimo, si fanno i chiodi appuntendoli, lasciandoli sulle rotaie del treno. Noi lo facevamo anche con le monetine, con le monete da 50 lire che diventa un piattello. Sergio, buongiorno. Sergio, ha parlato Riccardo. Buongiorno Riccardo, anche lei. Dunque, io ho comprato 2 cerbottane per le mie 2 bambine, per farle sparare lo stucco per strada, nelle gambe, come facevo io quando avevo 10 anni. Cerbottana con lo stucco mi sembra buono, ma noi le facevamo con sistemi più artigianali o con residui di laterizi presi e rubati nelle discariche. La tipica cerbottana di classe era la penna Bic svuotata con la pallina di carta pasticata. E c'era la cerbottana un po' più cattivella che si faceva piegando uno spillo. Con lo stucco è più carino. Beh, io le facevo con i piumini, veramente. Fa dei lividi nelle cosce. La botta di stucco bella e forte. E vanno per strada e sui ragazzi fanno i lividi nelle cosce. Ragazze. Ah, ragazze. Beh, così nessuno poi ha coraggio di dire nulla. Una bambina tenera con il fiocco è rosa. È difficile che l'accusino. Beh, è molto divertente, lei già ha rivelato delle regole della scuola ninja per minorenni, alla quale siamo tutti con grande soddisfazione cresciuti. Stefano, buongiorno. Pronto? Eccomi. Buongiorno. Guarda, io ho 3 figli maschi, quindi puoi immaginare, direi anche abbastanza vivaci, però mi rendo conto che rispetto alla mia giovinezza, dove io mi considero, ne parlavo l'altro giorno con un amico, un sopravvissuto, perché insomma con tutte le vicende che abbiamo fatto, pesche, caccia nelle paduli più insane, battaglie per conquistare i nostri fortini fatti sugli alberi. Ecco, mi ricorda bene, nei particolari, la costruzione della capanna sull'albero, che era una delle cose più pericolose, perché non avevamo elementi di carpenteria, facciamo delle casette e poi ci andavamo dentro. Erano assolutamente improvvisate, peraltro a delle altezze anche abbastanza, perché era più bravo chi lo faceva più in alto. Naturalmente. E quindi abbiamo rischiato. Io mi considero un sopravvissuto, perché gite in bicicletta in posti assolutamente remoti, su ferrovie, cioè delle cose assolutamente, rispetto ai miei figli, che ripeto sono tre, sono abbastanza vivaci, che loro non gli passa per l'anticamera del cervello di fare. Ma io in questo laghetto artificiale melmoso, quindi esatto, una trappola mortale, ho costruito imbarcazioni di tutti i tipi, che naturalmente non arrivavano mai a galleggiare al punto giusto, quindi tutti abbiamo rischiato la vita, ma probabilmente rischiare la vita in queste procedure serve a formare. Aiuta, tant'è che io periodicamente rapisco i miei figli, perché altrimenti non mi seguirebbero volontariamente, e li porto a fare delle avventure, insomma delle gite un po' particolari, e per mettere anche un po' la prova. Un'altra cosa è, aggiungo la mia, dormire fuori di notte quando c'era bel tempo, d'estate. Possiamo andare a dormire? Ai miei tempi non esistevano, quando ero piccolo, i sacchi a pelo era una cosa di cui si sentiva favoleggiare, si andava con una copertaccia schifosa, però ci sembrava una cosa fantastica. Daniele. Pronto? Daniele. Buongiorno. Cosa suggerisce lei in aggiunta alle 50 cose che i ragazzi devono tornare a fare? Io mi ricordo che da ragazzo al nostro paese faceva un gioco d'estate all'oratorio, si chiamava la caccia all'evaso, tre grandi che scappavano e tutti i bambini li inseguivano per il paese, ma poi finivi in mezzo ai campi a correre in mezzo ai filari di grano, ti buttavi, cadevi dentro le pozzanghere di fango, scavalcavi i canali. Penso che purtroppo per un gioco del genere adesso, solo il fatto di buttarli fuori da una struttura, scoppierebbe la guerra civile dei genitori. Sì, così nacque il mito dei cerchi sul grano, di cui Giacobbo fa felice racconto ogni settimana. No, perché poi di solito il contadino, se vedeva che gli abbassavate il gran turco, gli abbassate il grano, non credo che fosse felice di no, questo. No, ma non facevamo danni, noi passavamo in mezzo, attraversavamo il campo, ce ne andavamo, c'era anche la coscienza di non far disastri, però i bambini, sì, magari qualche bambino, qualcuno combinava. Però adesso giochi di questo genere, penso che dovresti far firmare solo dei permessi per farli uscire a correre, a attraversare la strada del paese. Quindi aspetti, ho un'importantissima integrazione a quanto dicevamo prima, che ce la dà Simonetta. Simonetta, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Per la vostra voce importantissima. Sì, importante, infatti se n'è andata, è tanto importante che non c'è più, chissà se mai tornerà. No, senta Simonetta, lei deve, ci rivela a questo punto un segreto che noi maschi non abbiamo mai saputo, cosa facessero mai le femmine quando noi facevamo le capanne? Quando voi facevate le capanne, anche noi facevamo le capanne, però allo stesso tempo preparavamo dei succulenti pranzetti a base di fango, di foglioline, di fiorellini, diciamo che imitavamo quello che facevano le nostre mamme. Io chiamo da Milano, ma all'epoca vivevo all'Aquila in Abruzzo, e noi eravamo libere di stare giù al campetto, quello che, dove oggi purtroppo non c'è più nulla, sono andata a visitare quei luoghi, ed eravamo liberi veramente di scorrazzare dalla mattina alla sera, e poi facevamo le incursioni nelle vostre capanne, ecco. Era importantissimo spiare i vostri movimenti, quello che facevate. Sì, era molto interessante e divertente questo antagonismo fra mondo dei maschi e mondo delle femmine. Era l'inizio del corteggiamento, poi capimmo da grandi che sempre una guerra sarà, e viva Dio, perché se non fosse una guerra sarebbe una gran noia. Mi stanno arrivando dei suggerimenti che sfiorano il penale, però non posso che leggerli. Tirare con la fionda i cassoni col telone dei camion quando passava per strada, così nascono poi quelli che buttano i sassi dal cavalcavia, che è una cosa brutta. Andare con il canotto seguendo la corrente alla baialera, non so cosa sia, però lo dico. Ah, questa è bellissima. Mio padre mangiava meloni acerbi, poi aveva acqua del pozzo, poi facevano la gara con i loro amici, era la gara della diarrea praticamente, così me l'hanno scritto. Si intossicavano, facevano, correvano, e chi per primo arrivava per liberarsi dell'esito di quella terribile cosa. Oggi ci sono gli yogurt con il bifidus nella pancia e tutt'altra cosa. Melog, La realtà condivisa. Guardare dentro un albero, esplorare un'isola, correre a braccia aperte facendo l'aeroplano, fischiare usando un filo d'erba, andare in cerca di fossili e ossa, guardare l'alba, scalare un'enorme collina, visitare una cascata, dar da mangiare a un uccello dalla mano, andare a caccia di insetti. (800) 24 0024, stiamo anche noi compilando l'elenco delle 50 più cose indispensabili per crescere. Sono quelle attività che i ragazzi hanno sempre compiuto entro i 12 anni e che adesso non fanno più. Ce lo dice il National Trust, che è l'organizzazione no profit che in Inghilterra tutela i beni culturali e ambientali, e ha deciso che è un bene culturale e ambientale da tutelare i giochi scellerati dei ragazzi, e quindi hanno elencato 50 cose che i ragazzi non fanno più. Dagli anni 70 a oggi è calato il 90% di queste cose, quindi soltanto il 10% ancora fa queste cose, tipo salire sugli alberi, tipo correre, rincorrersi, fare cose proibite. Devo dire, mai come questa mattina vedo un esplodere di SMS. Leggo qualcuno perché l'elenco è molto ampio. Ricordo, l'età è da tenere in considerazione è entro i 12 anni, quindi evitate, andavamo in giro con i motorini e queste cose qua, a meno che non l'abbiate fatto in età molto, molto tenera. Accadeva anche questo, ma già sono attività a limite. Sono attività semplici, di solito si fanno con ciò che offre la strada, ciò che offre la natura. Sono attività molte volte agresti, non necessariamente per persone che vivono in campagna, ma anche quando ancora le periferie avevano degli spazi in cui c'era erba, c'era veno, c'era lucertole, c'erano insetti, c'era un mondo favoloso da esplorare. Ho due figli, mi dice un ascoltatore, ma se io facessi fare loro ciò che facevo da bambino, i servizi sociali me li porterebbero via. Purtroppo alcune cose sono impensabili. È vero, perché vedo fra le cose fatte andare con costruirsi un carrozzone con un tavolaccio di legno, i cuscinetti a sfera e andare a tutta velocità per le discese, si rischia la vita, ma allora lo facevamo, tutti l'abbiamo fatto. Oppure tutti i ludi venatori in età infantile, caccia le lucertole, caccia gli uccelletti, caccia gli insetti. Oggi si rischia molto a fare queste cose perché il nostro livello di civilizzazione fa sì che vengano considerate sevizie verso gli animali. Ma se penso a quello che abbiamo fatto noi dei bambini agli animali, mi vengono i brividi, e quindi evito di raccontarlo. Oscar, buongiorno. Ah, buongiorno. Sono in linea? Sì, la sto ascoltando. È che in quegli anni là noi le facevamo tutte queste cose. Cioè, non era solo andare sugli alberi. Io la mia infanzia, posso dire, l'ho passata sugli alberi, tutta. Cioè, eravamo tutti dei baroni rampanti quando eravamo piccoli. Esatto. E ci si spostava. Mi ricordo che con le biciclette si facevano chilometri, si andava a trovare altri ragazzi, ci si spostava a fare nuove avventure. Mi ricordo, io abitavo abbastanza distante dal Piave, a diciamo una decina di chilometri, però si andava sul Piave e facevamo zattere. Con le piene. Infatti, guardi, gli inglesi, quello che hanno notato, che oggi i ragazzi non fanno più niente da soli, sono sempre seguiti, taccheggiati, c'è sempre un genitore, c'è sempre una badante, c'è sempre qualcuno che li osserva. E sotto osservazione di un adulto non c'è quel sottile senso di rischio per cui si fanno delle cose da folli. Andare sul fiume, come diceva lei, con una zattera è rischiare la vita, indubbiamente è rischiare la vita, ma l'abbiamo fatto tutti di quella generazione. Noi eravamo un gruppo di scalmanati e poi si andava a caccia di uccelli col vischio, era già vietato allora. Bracconaggio oggi, era gravissimo. Ma già allora più di una volta abbiamo dovuto scappare perché le guardie a caccia e forestali ci credevano. Però era un'attività non a scopo, cioè noi lì. Io ancora adesso mi ricordo il canto degli uccelli, il tipo di volo, li riconosco, la stagionalità. Parlavamo, era un parlare con la natura. Eravate dei cacciatori in erba, ecco, usavate il vischio perché poi per catturarli vivi. Sì, a 14 anni li tenevamo in gabbia. Regalavano la carabina Flaubert aria compressa, che era una vera arma, e uno andava a caccia. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Mi si è aperto un mondo stamattina quando l'ho sentita, di ricordo. Sempre bello sentirselo dire. Sì, Sinceramente, allora, noi facevamo tutte prove di coraggio, alla fine, perché eravamo in un paesino di montagna, maschi e femmine, non c'era differenza. E la cosa che mi ricordo di più era quando dovevamo cercare la biscia più lunga. Sapevamo riconoscere... A caccia di serpi andavate? Sì, sapevamo riconoscere quelle velenose e invece proprio le bisce, quelle... Ma poi le uccidevate o le catturavate? No, no, le catturavamo, le misuravamo e poi... E con cosa le catturavate? O con le scarpe. Beh, la ciaccavate quindi. Sì, sì. Cioè, diciamo le cose, cioè, la biscia non si prende viva, io ricordo, è brutto dirlo, ma il serpente si caccia, era caccia grossa. No, noi sapevamo come prenderli, oppure facevamo dei capi leggeri, anche perché le bisce lì al sole stavano e dormivano, quindi non avevamo... Le prendevate nel periodo appena uscite dall'letargo, sì, poi la biscia non si fa prendere. Poi avevamo un canale molto profondo e quando si puliva, cioè praticamente lo pulivano, la prova di coraggio era entrare nel canale e non aver paura se arrivava la piena e lì sì, si rischiava la vita. E mi ricordo che una volta ci abbiamo lasciato dentro anche un paio di scarpe, quindi la preoccupazione... Sì, questo io mi sono ricordato, camminare dentro i tubi degli scoli dei campi, che erano abbastanza alti, erano stati alti un metro, noi eravamo piccoli, ci stavamo quasi in piedi, ma molte volte erano dei percorsi lunghi. Sì, e poi la preoccupazione che arrivasse poi, quando aprivano la chiusa, l'acqua, no? Era il tubo da 100, in effetti era un metro, è vero, mi ricordo. Quindi mi ricordo che un mio compagno ci ha lasciato le scarpe, la preoccupazione di andare a casa... 30 anni, 40 anni fa, a dire che non avevamo più le scarpe, per cui erano... Era un dramma. Sì, e poi facevamo sulle montagne, venivamo giù con i sacchetti di plastica quando c'era la neve e mi ricordo che mio cugino si ruppe una gamba perché finimmo dentro in una roggia. Ah, ecco, sì, lo slittino casalingo costruito con mezzi di fortuna, non quei fantastici slittini oggi già pronti, precostituiti. Grazie Daniela. Sergio. Allora, lei cosa potrebbe insegnare oggi? C'è un lungo elenco, veramente. L'ultimo, bisognerebbe distinguere fra cose pericolose e non pericolose. Io vado per quelle non pericolose, creative. L'aquilone. A me l'aquilone, mio figlio, non è mai riuscito. Io lo costruisco, li faccio da me, farò delle foto, prendo delle cannucce, prendo la carta, però lui non gli interessa niente di tutte queste cose. Perché l'aquilone è una costruzione complessa, perché sembra facile farlo, ma in realtà l'aquilone deve avere un suo equilibrio e una sua aerodinamica, se no si va giù in picchiata o se no si strappa. No, è una cosa molto semplice, che non è altro che un arco con una corda e un quadrilatero. E però mio figlio non gli interessa niente di tutte queste cose. Guarda, io ho costruito aquiloni con una canna spezzata a metà, la croce si faceva con la canna. Cominciavamo così, poi non so dalle sue parti, ma la croce, che è l'inizio, si faceva con una canna, è tagliata e legata con lo spago, poi si faceva l'archetto, poi si costruiva con la carta. Durava sempre molto poco, ma era una giornata per confezionarlo. Sto leggendo le cose che non posso leggere. La pesca del ranocchio con l'ancorina e il petalo di papavero, bellissimo. Poi i botti col carburo e nella scatola dei pelati. Sì, si rubava il carburo dei saldatori, erano delle fantastiche bombe. Poi vennero gli anni di piombo e chi faceva queste cose finì male. Andare a fare l'amore tra i container, e questo è il solito spaccone, si parla di roba di 12 anni, non si faceva nulla. Sentiamo Cristiano. Cristiano. Ciao a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io abito in un paese piccolino, appena fuori Milano, e mi ricordo nelle mie epoche si giocava con la canna, ovviamente con i bussolotti che si facevano con i primi fogli plasticati dei giornali, era gli anni 70, 70 e qualcosa. Quei conetti, sì. Sì, quei conetti che si facevano con le dita ritagliando striscioline di carta. Allora, poteva sempre metterci uno spillo sull'ogiva. La particolarità era ancora più bella in campagna da noi, perché si prendeva un uovo fresco e si beveva il rosso d'uovo. Con la chiara dell'uovo praticamente ungevamo questi bossolotti fatti con la carta e li lasciavamo asciugare al sole. Per conto una decina stesi ad asciugare al sole, la chiara d'uovo col sole si induriva e li rendeva micidiali. E diventavano dei veri e propri corpi contundenti, di segreti. Ecco, questo sarebbe secondo me una buona scuola fra i rangers che hanno scelto i signori inglesi. Potremmo mettere un confezionatore di munizionamento per Cerbottana, che mi sembra fondamentale. Melog, la realtà condivisa. cercare uova di rana, catturare una farfalla con il retino, inseguire animali selvatici, scoprire cosa c'è in uno stagno, richiamare un gufo imitando il suo verso, osservare le strane creature tra le rocce di un lago, allevare una farfalla. Siamo letteralmente sommersi dai suggerimenti di tanti aspiranti rangers che vorrebbero spiegare cosa si può fare fino ai 12 anni senza necessariamente rimanere tutto il tempo stravaccati sul divano con la PlayStation. Ma oggi i ragazzi hanno delle giornate molto piene, molto intense, vanno in palestra, vanno a fare musica, vanno a fare la seconda, la terza, la quarta lingua, tutte cose indispensabili, utilissime. Però se dopo li lasci in mezzo a un terreno brado, a un campo non coltivato, a un frutteto, non sanno cosa fare. Ad esempio, il furto della frutta era una delle attività più citata dai miei ascoltatori. Addirittura qualcuno rubava la frutta e poi andava a rivenderla. La caccia agli animali, agli insetti, ai piccoli animali, era naturalmente un'altra delle attività che oggi nessuno farebbe. Poi mio marito ogni anno, dice un'ascoltatrice, costruisce con i rami di salice fresco degli zufoli da 3-4 note e li suona con i suoi amici. Sì, costruirsi lo zufolo con la canna era un'altra cosa. Faccio il sugo con i pezzi di tegola grattugiata, ecco. Oltre alle tortine di fango, il sugo si faceva con la tegola, con il mattone grattugiato, perché veniva naturalmente rosso. Si passano ore sugli alberi, il cartoncino e il cornetto per il conetto per lanciare con la cerbottana, gavettoni di tutti i tipi, gavettoni sui treni, gavettoni dalle finestre, gavettoni per strada, fumare i peli di pannocchia con la carta di giornale, si fumava di tutto, c'erano degli arbusti che dentro avevano una specie di polistirolo bianco, non saprei come descriverlo meglio, anche quello si fumava, faceva schifo ma si fumava. Cesare, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Volevo raccontare una cosa per dire l'estremo grado di incoscienza, diciamo, che si ha a quell'età, insomma, sui 10 anni facevamo delle gallerie in una montagnetta molto, diciamo, sabbiosa, e facciamo questi tunnel e ci si infilavamo dentro come delle gallerie, delle cose così. Lei immagini che cosa può succedere, una frana, qualcosa proprio in grado di incoscienza che se ci penso. Guardi, adesso degli altri suoi colleghi ex bambini scriteriati mi dicono che entrano di soppiatto nei cantieri e stuffavano nei mucchi di cemento, di sabbia, di laterizio. Altri facevano, lo dico io, si tuffavano nei granai. Tuffarsi nel grano appena messo dentro il granaio ti faceva venire delle ustioni di quarto grado, ma era fantastico poi nuotare nel grano. Poi un'altra cosa che mi aggiungo così, erano le battaglie che facevamo con le fionde, erano sassi veri, le dico di quelle. No, la fionda deve far male, sennò che fionda è? Non esiste la fionda salva. Siamo nel paese, il paese vicino, c'era la battaglia, ogni tanto c'era queste battaglie con le fionde, questi sassolini che facevano male. Ecco, comunque eravamo fuori. E allora guardi, la sorprenderò. Carlo, buongiorno. Buongiorno, allora, Nicoletti. Lei ci spieghi questa mattina l'arte della costruzione della fionda. Guardi, la fionda era proprio una cultura, si doveva andare nel bosco, scegliere il rametto a V messo bene, a volte bisognava impostarlo, nel senso fargli prendere forma, quando era pronto si tagliava, si spellava, si portava a casa, si faceva la forma perfetta della fionda, poi si andava a sventrare la bicicletta della nonna o della mamma o di chi, che avevano le camere d'aria ancora... Certo. Rosse, non esistevano quelle nere. Quelle nere non funzionavano bene, era rossa. No, sono arrivate dopo, probabilmente sono arrivate dopo. Erano rosse che quando le tendevi diventavano rosa. Poi si sventrava qualche vecchia scarpa per fare la presa. O una cartella. Spago da salame per legare la camera d'aria. E poi si diventava, all'inizio eravamo imbranati, ma poi addirittura si prendevano i fili della luce, cioè eravamo bravissimi, poi da sasso a sasso cambiava la traiettoria. Ecco, però un'altra cosa assolutamente da non fare, mirare agli isolanti dell'alta tensione. No, l'ho già sentita, no, ma non ci dava soddisfazione, la soddisfazione era quel sentire il sibilo del sasso che colpiva. Perché quelli si rompevano, era bello. Perché tutti bravi a prendere gli isolanti, ma il filo era più difficile prenderlo. E poi non le dico, dal carburo all'aquilone ne abbiamo fatte di tutti i colori, ma questa è la vera università della strada. Ma lei è d'accordo, come fanno appunto in Gran Bretagna, che sarebbe il caso di reintrodurre l'idea che certe cose andrebbero fatte? Oddio, non è la stessa cosa, perché mio figlio preferisce la PlayStation, lo ucciderei quando... Ma nulla contro la PlayStation, figuriamoci, no, va benissimo. Niente, però la partita a pallone dà di più, il contatto umano dà di più. È il problema che non sanno dove andare, la maggior parte dei casi non c'è lo spazio. Io li porto, come io faccio, ero un modellista, lo porto come... ma si stufa, cioè dal costruire un aereo a farlo volare c'è una tecnologia che ci vuole poco, ma si stufa, sembra che non serva a niente. Sentiamo Gianluigi. Pronto? Gianluigi, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io da piccolo avevo un po' la passione per il fuoco e... Nessuno ha avuto il coraggio di dirlo, ma il vero gioco proibito per eccellenza era giocare con i fiammiferi. Dunque, un suo collega mi dice che andavano addirittura, laddove c'era la fortuna di avere un cimitero a portata di mano, a rubare i vecchi moccoli dalle tombe, poi si squagliavano e si facevano delle cose fantastiche con la cera. Lei con il fuoco cosa faceva? Io e qualche ragazzetto un po' più grande del mio palazzo, in un sottoscala abbiamo fatto una raccolta di carta e legna e gli abbiamo dato fuoco facendo una pira mostruosa, e mi ricordo che indissero anche un'assemblea condominiale per cercare di trovare i colpevoli, che naturalmente... Sì, accendere il fuoco era proibitissimo, era una delle cose naturalmente dava più soddisfazione. Effettivamente non so se io sarei molto contento se i miei figli facessero una roba del genere, però è una cosa che... Diciamo che venne un momento in cui mi insegnarono a me a gestire il fuoco, come si accende un fuoco, prendevo molto in giro gli amichetti facendo i boy scout, mai avrei voluto fare il boy scout, era proprio antitetico alla mia indole più profonda, però devo dire che apprezzo che oggi saprei accendere un fuoco tenendolo a governo senza incendiare la macchia attistante. Matteo. Altra cosa pericolosa, cosa faceva lei? Sì, con mio fratello, io ero un po' più grande, avevo 10 anni. Ma mi scusi, fermo Matteo, una notizia importante, una breaking news, mi dice un ascoltatore con via sms che era il midollo di sambuco, quello che fumavamo noi che sembrava polistirolo, era un arbusto molto profumato che era il sambuco, e il midollo di sambuco ce lo fumavamo. Prego Matteo. Sì, io avevo 10 anni, ero un po' più grande, mio fratello era un po' più piccolo, e costruivamo queste lance qua perché eravamo un po' affascinati dagli indiani, da quelle cose lì, no? E costruivamo queste lance qua in giardino da mia nonna, e ce le tiravamo dietro, non so come mai, perché forse eravamo incoscienti, non lo so. Sì, però le lance con la punta naturalmente, che sono infilare. Sì, con la punta, cioè non di ferro... bastoni tirati fuori dagli alberi Ma poi a disposizione allora c'erano roncole, attrezzi di tutti i tipi, fare la punta a un bastone era facilissimo, fare una lancia indigena era ancora più facile era farsi male. Grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti, grazie a quelli che hanno sopportato il mio calo drastico e irreversibile di voce. A domani.